E interrompiamo la programmazione musicale per una corrispondenza in diretta da Trapani, dove c'è una situazione di un'occupazione che viene sgomberata. Pronto? Sì, ciao. Cosa sta succedendo lì a Trapani? Sta succedendo che dopo quasi 7 mesi di protesta, presidio permanente, ricordate, siamo stati pure 4 mesi a vivere su una nave, e sono venuti tantissimi agenti antisommossa. E alle 5:30 di mattina eravamo solo in 2, perché se ci turniamo chiaramente come ogni presidio per la notte bastano 2 o 3 persone, e mi hanno svegliato, mi sono trovato circondato da poliziotti in tenuta antisommossa. Senti, puoi riassumere la lotta che è in corso lì in quella fabbrica? Certo. Praticamente l'azienda, la cantiera navale Trapani, ci ha prima messo in cassa integrazione e poi licenziato, paventando una crisi internazionale. E qua la crisi per il nostro settore, cioè riparazioni navali, non esisteva completamente proprio a Trapani. È stata solo una manovra speculativa per salvarsi l'altra azienda, quella sì sua di famiglia. Qua ricordo che questa azienda è su un'area demaniale, quindi l'area è dello Stato. E non la può concedere a uno che non ha voglia di lavorare, che licenzia, che non manutenziona. Infatti il cantiere è un disastro. Fatto sta, ha assunto 6 persone con l'altra azienda, le ha fatte entrare, per entrare, dopo che noi abbiamo fatto tante azioni sempre pacifiche e simboliche, tipo incatenarci ai cancelli, perché noi abbiamo il diritto di lavorare qua, dopo 16 anni, 18 anni lavoriamo qua, non personale di altre aziende. Noi non abbiamo niente contro gli altri operai, per carità, no? L'hanno voluta ridurre a guerra tra poveri, questo è stato un tentativo del padrone, ma non è assolutamente una guerra tra poveri. Noi abbiamo il diritto di lavorare qua, ci ha buttato fuori senza alcun valido motivo. Oggi finalmente il grande passo, la prefettura per ordine pubblico, cioè noi sempre qui pacifici per ordine pubblico, continuano ad arrivare pure camionette, cioè sono tantissime, hanno presidiato tutta un'area per far entrare 6 lavoratori che oltretutto ai quali non abbiamo mai impedito fisicamente di entrare, mai. Questo ci tengo a precisarlo, sono sempre state azioni simboliche e pacifiche. E questo è quanto, ora stiamo andando in prefettura a fare un presidio permanente, a fare un po' di bordello lì e vediamo un po'. La nostra lotta continua comunque, i compagni si tranquillizzino, perché la lotta paga sempre, bisogna sempre reagire, cambiano le fasi, cambiano le tattiche, questo non è un problema, non bisogna demoralizzarsi, noi non lo siamo,